24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:34 minuti, eccoci qua cari ascoltatori per una nuova puntata di 24 mattino in diretta fino alle 9. Vi voglio lanciare subito il sondaggio che potete già votare sul sito di Radio 24, radio24.it. Avete visto un paio di giorni fa la manifestazione a Milano di Daniela Santanchè, alla chiusura del Ramadan è andata a manifestare perché dice no al velo integrale per le musulmane, quello che viene definito burqa, che poi è un errore definire burqa. Ci chiediamo questo dopo questa manifestazione: voi lo vietereste in Italia con una legge? Potete votare sul sito radio24.it la lettura dei giornali. In primo piano. La lettura dei giornali, l'apertura è dedicata in gran parte al giorno del lutto, ieri con i funerali di Stato dei sei para uccisi a Kabul. Lacrime e applausi per i sei para, apre così il Corriere della Sera. L'addio ai caduti di Kabul, la Repubblica. Portavano pace, sono i nostri eroi. Questa è la Stampa, ci sono le foto delle sei bare nelle prime pagine dei giornali, ci sono commenti, anche qualche polemica comincia ad affiorare. E ci sono tra i commenti, ne ho scelti alcuni, Carlo Azeglio Ciampi, l'ex Presidente della Repubblica, firma in prima pagina del Messaggero. Orgoglio e dignità la risposta di un paese, così scrive Ciampi. Questa è l'Italia vera che consacra l'orgoglio di Roma come centro naturale della sua civiltà, origine e conclusione di una storia millenaria che ha trovato qui e non altrove l'unico possibile riconosciuto punto di riferimento in cui gli italiani, tutti, si sentono parte viva e integrante di un processo finalmente compiuto di unificazione nazionale. E ancora scrive il presidente Ciampi, la bandiera che avvolge i corpi dei nostri parà custodisce il tesoro dell'unità nazionale, dietro i colori della bandiera ci sono l'orgoglio e la dignità degli italiani. Ricordiamocelo. Tra l'altro fa una cosa secondo me meritoria il Sole 24 Ore, alle pagine 2 e 3, una cosa innovativa, effettivamente non avevo ancora mai vista, pubblica i nomi degli eroi. Dall'Eritrea all'Afghanistan sono 138 i morti nelle missioni di peacekeeping, troverete 138 volti. Dal primo, Mogadiscio, 1950, Pio Semproni, marchigiano, il primo a cadere appunto nelle missioni italiane all'estero, fino ad arrivare per esempio a una strage dimenticata nel Congo. Nel 1961 a Kindu morirono in 13 italiani in una imboscata. E poi insomma fino ad arrivare ai giorni nostri, 138 volti che fanno parte tra l'altro di un libro della difesa, del Ministero della Difesa, ai caduti delle missioni all'estero, un volume che vuole ricordare ovviamente tutte queste persone, queste storie, i nomi degli eroi e anche i volti che trovate a pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore. Dicevamo che comincia a fiorare qualche polemica. Beh, intanto ieri c'è stato questo imprevisto con un uomo che è andato sull'altare a gridare pace subito. Tra l'altro il Corriere lo identifica, si chiama Antonio Cianci, 57 anni, lo portano via mentre lui si dimena, mulina pugni, digrigna i denti. A precedenti per furto e rapina, nel 1990 fece irruzione sul palco del Festival di Sanremo, poi su quello del Costanzo Show, poi interruppe pure un concerto di Madonna a Barcellona. Questa è, insomma, è quello che è successo ieri ai funerali. Dicevamo, tra le polemiche c'è quello di alcune decine di scuole. Sapete che ieri c'era il minuto di silenzio prima dell'inizio delle lezioni. No da decine di scuole al minuto di silenzio. Tra l'altro è un'accusa che c'è sul Corriere della Sera, l'ha lanciata al ministro dell'istruzione Gelmini ed è anche diventa il pretesto per un commento per l'editoriale di prima pagina di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Un gesto semplice e una cattiva lezione, scrive Aldo Cazzullo. Molti presidi, altri presidi, ma di la verità, si sono rifiutati di accogliere la disposizione del ministro, vale a dire quella del minuto di silenzio. Quando la settimana scorsa Maria Stella Gelmini ha denunciato in un'intervista al Corriere la persistenza di aree di militanza politica nella scuola, si sono levate contro di lei molte critiche. Ora appare chiaro che il ministro non aveva torto. E bene ha fatto a chiedere scusa alle famiglie dei caduti, anche a nome di coloro che hanno negato quel minimo segno di dolore e rispetto. Tra le varie giustificazioni, scrive Cazzullo, colpisce quella della direttrice di una scuola romana. Ogni caduto sul lavoro, non soltanto i militari, dovrebbe essere commemorato. E proprio all'interno c'è la dichiarazione del preside della Iqbal Masi a Roma. Simonetta Salacone, candidata tra l'altro non eletta alle ultime europee per Sinistra e Libertà, sarebbe stata solo retorica, dice. Se proprio va osservato un minuto di silenzio, deve essere dedicato a tutte le vittime che muoiono sul posto di lavoro. E del resto anche quei soldati stavano facendo il loro lavoro. Giusto per restare nelle polemiche, farà forse un po' discutere il titolo, anche se è un giornale non a grande diffusione, quello di Piero Sansonetti, l'altro, che oggi titola così: abbasso la retorica, abbasso la patria. E dice Sansonetti, è vero, abbiamo scelto questo titolo brusco, molto brusco, ma questa è l'orgia della retorica, del nazionalismo, della patria sacra, e che non solo non è utile a nessuno, non solo non aiuta né la comunità a crescere né i parenti delle vittime a sopportare il loro dolore, non solo non semplifica le decisioni che il potere politico dovrà prendere sul guai afghano, ma provoca un danno maggiore, il rigurgito reazionario violento, rabbioso, di massa. Questa è la polemica di Piero Sansonetti sull'altro. Ma per lasciare insomma questo tema, che comunque domina le aperture dei giornali, come detto, arrivare alla politica, la notizia del giorno, politica o affini, politica o dintorni, la notizia del giorno sicuramente la pubblica Repubblica. Sentite il titolo: Diritti TV, pronto a Milano, l'atto d'accusa per Berlusconi. Appropriazione indebita, questa sarebbe l'accusa. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro altrui. La chiusura dell'indagine, scrivono Piero Colaprico e Emilio Randaccio su Repubblica, è il preludio della richiesta di rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi ed è già pronto nell'ufficio del pubblico ministero Fabio De Pasquale, che dovrà ora decidere se formalizzare il passo prima o dopo la sentenza della consulta sulla legge Alfano, che rende immune il capo del governo. I pubblici ministeri temono polemiche, clamori, non sanno decidere quale delle due opzioni sia la più low profile. Consegnarla prima del giorno del giudizio della Corte può sembrare una sfida ai giudici costituzionali. Dopo la decisione della consulta, quale che sia, sarebbe una vendetta o un'aggressione al Premier. Si vedrà. Quel che già da oggi è chiaro sono le ragioni, il quadro probatorio che ha convinto la Procura a definire la nuova accusa contro Silvio Berlusconi. Si tratta sostanzialmente di questa domanda: il patron di Fininvest Mediaset era soltanto, come si legge nelle carte, l'end user, cioè l'utilizzatore finale, direbbe Niccolò Ghedini, dei diritti televisivi acquisiti da un costosissimo intermediario, tal Frank Agrama, oppure l'esoso intermediario era il socio occulto di Berlusconi, che così poteva lasciare all'estero fuori bilancio ghiotti profitti? Su questo si baserebbe quello che Repubblica oggi scrive in prima pagina, con un risalto molto ampio all'interno, due pagine. La nuova inchiesta pronta, il nuovo atto d'accusa che la Procura di Milano avrebbe già pronto per Silvio Berlusconi. Temo che questa decisione, questa notizia ovviamente scatenerà nuove polemiche oggi. Riguardo alla politica, ieri c'è stato l'incontro molto atteso dopo le tensioni, le frizioni tra Berlusconi e Fini. Ne scrivono un po' tutti i giornali. Francesco Verderami su Il Corriere della Sera scrive: il cavaliere è il compromesso obbligato, ma rischiamo il rapporto con i cattolici. Scrive Verderami: poco importa se Silvio non si fida di Gianfranco e viceversa, se l'unica intesa è stata quella di non parlarsi più attraverso i media. Entrambi sanno che i problemi restano, frutto delle due visioni diverse, e certo la consultazione permanente consentirà di cercare dei compromessi su questioni spinose, ma è da vedere se e come si comporrà una mediazione su temi, per esempio come i diritti agli immigrati e il testamento biologico. Secondo alcuni giornali, secondo alcune ricostruzioni, Fini avrebbe sostanzialmente chiesto la testa di Vittorio Feltri, il direttore del giornale, colui che insomma ha fatto diversi attacchi allo stesso Fini in prima persona. Feltri, la smetta o non si discute? Questo Secondo Repubblica, per esempio, il titolo del retroscena di questo faccia a faccia durato 2 ore e mezza a casa di Gianni Letta tra Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini. Un altro tema importante che viene trattato dai giornali è quello del discorso ieri, la prolusione al Consiglio Permanente della CEI del Cardinale Bagnasco. È trattato su diversi giornali, La Stampa, Bagnasco, i politici siano sobri. Questa è una notizia che trovate un po' ovunque sulle prime pagine dei giornali. E riguardo a questa dichiarazione, La Stampa intervista Fabrizio Cicchitto, il capogruppo dei deputati del PDL, che dice: condivido il richiamo di Bagnasco, ma non è rivolto al Premier. Non c'entra nulla parlare di Bagnasco, di questa dichiarazione rivolta a Silvio Berlusconi, dice Cicchitto in un'intervista concessa ad Antonella Rampino. Che però chiede attenzione, però Bagnasco richiama l'articolo 54 della Costituzione, che richiama il decoro per chi ricopre funzioni pubbliche, come ha fatto Eugenio Scalfari, e dice Cicchitto: il paragone è assai improprio, non si può equiparare quello che dice Bagnasco a Scalfari né riferirlo al presidente del Consiglio. Bagnasco ne parla sub specie eternitatis, cioè senza accenni ad accadimenti contingenti. In primo piano. Una chiesa sempre amica, questa è l'apertura di Avvenire, che dedica ovviamente ampio risalto pubblicando tutta la prolusione del cardinale Bagnasco ieri al Consiglio Permanente della CEI. Tra l'altro c'è il commento, un editoriale in prima pagina di Francesco D'Agostino, e all'interno un'interessante intervista al fondatore della comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi, che dice: ci si aspettava una continuazione della polemica sul caso del giornale, le dimissioni di Dino Boffo, invece il presidente della CEI ha scelto di situarsi su un altro piano, pur senza rifugiarsi nell'empireo ecclesiale. Ha dichiarato che la Chiesa è leale e non si fa intimidire, ma non ha accettato la logica mediatica, anche se significativamente ha dedicato alla vicenda l'apertura parlando di passaggio amaro, diretto ingiustamente a una persona impegnata a dar pubblica voce alla comunità. Mi pare importante, dice ancora Riccardi, il passaggio in cui Bagnasco sottolinea che la Chiesa dice verità scomode ma è amica e non padrona. Che significa, chiede Paolo Lambruschi, che in un paese in cui si sente a casa sua, in cui si sente di interpretare tante istanze del popolo, non pretende una situazione monopolistica ma neppure di essere murata nel silenzio. Questo Avvenire. Ora continua la polemica, ed è anche il nostro sondaggio di oggi, dopo l'incursione di Daniela Santanchè, che è andata alla festa di chiusura del Ramadan per dire: c'è una legge, bisogna farla rispettare, no al velo delle donne, c'è stato un parapiglia. La Santanchè, che oggi sul Corriere della Sera ancora dice: io aggredita e le femministe tacciono, mi fa più male il silenzio delle femministe che il dolore fisico. E poi ancora: ho dormito, gli antinfiammatori, le punture, sono rimasta sveglia tutta la notte. Io, a dire la verità, ieri, commento mio, l'ho vista ieri in gran forma su Tele Lombardia guerreggiare su questo tema. Dove andrò la prossima incursione? Ne sto studiando una bella, annuncia. E poi dice, un po' provocatoriamente: e se sotto il burka ci fossero state donne con bombe? Non vorrei che un giorno succedesse qualcosa di così grave che mi si darà ragione. Perché la polizia non ferma queste donne, le controlla, le identifica? Su Libero ci fanno sapere che la legge antiburca ora è forse proposta al Parlamento, Isabella Bertolini. Il testo è fermo in commissione da mesi, ma sono pronta a una protesta eclatante in aula. Che ne so, eclatante, si presenterà con un burka forse. La battaglia della Santanchè: ho paura ma vado avanti. Questo sul giornale, ripeto, questo è il nostro sondaggio. Che ne pensate? Il tema in realtà, al di là delle manifestazioni, è molto serio, tanto che in Francia per esempio stanno discutendo una legge per vietare il velo integrale. Si dirà, una legge in Italia c'è già, come dice la Santanchè, che vieta di girare coperti. Qui però la questione è diversa: la legge del 75 certo non fu fatta in tempi attuali, pensando alla situazione attuale. Ebbene, potete votare sul nostro sito se secondo voi sia necessaria una legge per impedire il velo integrale soprattutto per le donne musulmane. Radio24.it per votare. Venendo alle segnalazioni conclusive della rassegna stampa, troverete oggi un prima pagina un po' ovunque, e soprattutto anche con ampio risalto all'interno, la foto di Lady Diana. E di chi? E dell'ex presidente francese Valéry Giscard d'Estaing. Perché? Perché c'è un libro che esce proprio a firma dell'ex presidente francese, in cui non si capisce se buttata lì c'è l'accenno a una presunta love story tra Giscard d'Estaing, appunto, e Lady Di. La love story tra il presidente francese e Lady Di è addirittura pagina 5, un'intera pagina sul giornale, ma la trovate un po' ovunque. Insomma, c'è questo giallo che in Francia sta appassionando molto. Ieri sui telegiornali francesi non si parlava d'altro, di queste anticipazioni di Le Figaro, di questo libro di Giscard d'Estaing in cui si parla di una presunta love story. Ancora qualche segnalazione in chiusura. I bambini tiranni vanno ignorati. Questa è una cosa che interesserà molti genitori all'ascolto. Cari genitori, non sapete più che pesci pigliare, le avete tentate tutte, ma con vostro figlio è una battaglia continua. Sto leggendo dal Corriere della Sera. Di mangiare a tavola, farsi il bagnetto, lavarsi i denti, non ne vuole proprio sapere. Provate così, arrendetevi. Lasciategli fare quello che vuole e con un bel sorriso sulle labbra, per giunta, tranquilli. È solo una tattica, perché l'unico modo per vincere la guerra è battere in ritirata. È un nuovo studio che proviene da un importante istituto americano specializzato nell'aiuto alle famiglie in difficoltà, che dice sostanzialmente battete in ritirata, appunto, non cercate di porvi in maniera autoritaria, lasciategli fare quello che vuole, mostrate disinteresse per come si comporta, non rimproverate nessuna richiesta in maniera dura e ferma, chiedete tutto per favore, usate un tono dolce e vedete che i bambini tiranni, o meglio i bambini insomma che fanno troppi capricci, dopo un po', di fronte a questo atteggiamento spiazzante, desisteranno. Materiale per discussione nelle famiglie. Voglio chiudere con la Gazzetta dello Sport. Avete sentito in GR24 anche, il titolo è Fuori Briatore. E poi c'è anche sul calcio dentro Cassano in nazionale, ma mi interessava la vicenda di Briatore. A pagina 2 e 3 della Gazzetta c'è un gigantesco radiato. È la discussione che fa, è una decisione che fa discutere, una punizione shock, Briatore fuori dalla Formula 1 a vita. Pare che abbia detto pochissime parole tramite gli avvocati ieri Flavio Briatore, ad alcuni amici avrebbe confidato «sono sconvolto», ma dice la Gazzetta dello Sport «non resterà zitto a lungo», si vocifera di un'azione penale contro la federazione da avviare alla Corte di Parigi. Ci fermiamo qui con questa segnalazione, ricordo il sondaggio che potete votare su radio24.it, vi vogliamo chiedere se il velo integrale per le donne musulmane è una cosa che vietereste per legge in Italia, oppure è un problema che non ritenete importante, per cui valga la pena legiferare. Che ne pensate, sì o no? Andate sul sito radio24.it, ne parleremo alle 8.30 e potrete anche telefonare, potete farlo anche già da adesso, all'800 24 0024 per intervenire. Quindi diciamo 1,3 miliardi di euro circa, però c'è una cosa, di tutti questi soldi moltissimi sono andati distrutti. Perché? Ma perché ogni volta che c'è una tragedia, un terremoto, un incendio, un disastro, un'alluvione, ogni volta che una nave affonda o qualcosa, ci sono soldi che si perdono. Pensi ad esempio in un terremoto, quanti soldi che vengono persi. Certo, il terremoto è un evento raro, ma sono tutti eventi rari, però ce ne sono tanti. Le alluvioni, ad esempio, sono uno degli eventi che creano dei danni maggiori, certo. O un incendio. E poi c'è anche un fatto che molti soldi vengono proprio nascosti, perché molti di noi, quasi come i roditori che nascondono le noci, mettono da parte a volte dei soldi così per le emergenze in contanti e li mettono sotto il materasso. Recentemente è successo che smontando un materasso vecchio vengono buttati via, in cui è successo proprio che c'erano dentro dei soldi. E infatti, cucini. Perché magari qualche persona anziana può anche capitare di non ricordare dove li ha messi, perché capita anche questo. Ma tanti li tengono nei libri, certo. Libri mettono da parte qualche biglietto da 500 anche signore anziane, uomini anziani, e quindi, perché poi il denaro noi non lo esponiamo mai, dobbiamo nasconderlo, non si vede mai nessuna casa. Andiamo ai suggerimenti pratici, professor Crapanzano. Allora, ci sono dei modi per, come dire, lire per far fruttare le vecchie lire. Intanto si possono convertire queste banconote qualora le ritrovassimo in qualche vecchio libro, in qualche vecchio cassetto. Dove dobbiamo andare? Beh, la cosa migliore è andare in una filiale o in una succursale della Banca d'Italia. A volte anche le altre banche fanno questo servizio, ma non sono più obbligate. Se uno sta in un paesino, un po' una seccatura, dovrebbe andare, però in genere si trova qualche banca o qualche ufficio postale che le cambia. Che ha un po' di pazienza. Bisogna andare in una delle tante sedi e succursali, sono più di 100, della Banca d'Italia. In ogni provincia ce n'è una. Quindi insomma, e andando in Banca d'Italia i soldi sono cambiabili, anche quelli brutti, sporchi, laceri, mentre però ecco, insomma, a valore nominale naturalmente. Sì, certo, c'è tempo lo voglio ricordare velocemente, fino al febbraio del 2012 per fare questa conversione. Febbraio, benissimo. Poi si possono anche spendere. Io ho addirittura così individuato questo centro commerciale, una catena di supermercati che si chiama Il Centro in Toscana, che raggruppa 16 punti vendita fra Firenze, Arezzo e La Spezia, dove ancora accettano la vecchia lira, professor Crapanzano. Anche a Milano, devo dire, ci sono dei negozi, alcuni espongono un piccolo cartello, non è sistematico, ma sono in diversi, perché tanto se uno ha la pratica e va in Banca d'Italia li cambia facilmente, basta che non siano somme grosse, ecco. D'altra parte uno in un negozio, in un supermercato, non può spendere delle grandi somme. Allora, c'è un vincolo per cambiarli, bisogna anche dare il proprio nome, però se uno ha un negozio, un supermercato, non ha problemi. Certo, allora io devo salutarla, professor Crapanzano, gli ultimi 10 secondi di tempo dedicati anche a chi vuole venderli sul mercato collezionistico dopo averli fatti valutare, come si fa ad individuare il professionista che naturalmente non si prenda gioco di noi. Certo, beh, ecco, quello bisogna anche essere fortunati, però ci sono tanti circoli numismatici in ogni cittadina, oppure dei convegni numismatici o dei punti d'incontro, oppure un commerciante serio che è il negozio, basta andare anche su internet e uno digita numismatico e trova quelli un po', come dire, certificati. Io ricordo che in Italia ci sono 350 aderenti all'associazione NIP, Numismatici Italiani Professionisti. Perfetto. Eppure possono scrivere a noi, noi gireremo tutte le domande al professor Crapanzano, che ci aiuterà senz'altro ad orientarci. Io intanto la ringrazio, le auguro buona giornata, a presto. Alessandro, stai ancora continuando a circolare con questo sacchetto da 50 lire... Sì, non so a chi darle. Allora, alle 12, Salva Danaio. Mercato immobiliare, dove vanno i prezzi delle case, continuano a scendere, compravendite e prezzi, dove troviamo qualche buona occasione. Alle 8.34 minuti, le notizie in primo piano sono queste. La finanziaria approda oggi in Consiglio dei Ministri, una manovra snella, 3 articoli, tante tabelle, che prevede tra l'altro quasi 700 milioni di fondi per il rinnovo dei contratti pubblici nel 2010 e l'estensione delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni anche nel 2012. Ieri i funerali dei 6 Para uccisi a Kabul, e di Afghanistan ha parlato poco fa il presidente iraniano Ahmadinejad. Le truppe straniere se ne devono andare, ha detto. Da quando sono presenti, il terrorismo si è moltiplicato e la produzione e il traffico di stupefacenti è raddoppiato. Servono politici sobri, la Chiesa non si farà intimidire. Questo è il senso dell'intervento ieri del Cardinal Bagnasco alla conferenza permanente della CEI. Bagnasco ha citato la Costituzione, ha chiesto ai politici di essere consapevoli della misura e della sobrietà, della disciplina e dell'onore che il loro mandato comporta. Infine, per lo sport, Flavio Briatore è stato radiato dalla Formula 1. Questa è la decisione della Federazione Internazionale contro la Renault. Briatore è stato ritenuto responsabile di aver provocato nel 2008 a Singapore un incidente in cui venne coinvolto nel signo Piquet, il tutto per favorire il compagno di squadra Alonso. E allora, alle 8.35 minuti, siamo pronti per il nostro sondaggio di oggi. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Detto che ieri, ce lo chiedono in molti di dire il risultato, e lo facciamo, parlavamo del lodo Alfano, e c'è da dire che il 73%, questo è il risultato finale, ha bocciato il lodo Alfano, vale a dire la legge che congela i processi per le più alte cariche dello Stato. Oggi parliamo di velo integrale per le donne musulmane. Sapete, c'è stata questa manifestazione di Daniela Santanchè, che oggi ancora parla attraverso i giornali e dice: ne sto preparando un'altra ancora più bella, io sono stata aggredita, le femministe tacciono. Ma insomma, il tema, al di là della manifestazione in sé, è un tema interessante e se ne discute in diversi paesi europei, anche in Italia. Vi chiediamo: vietereste in Italia con una legge il velo integrale per le donne musulmane? Spesso c'è la citazione burka che fa tanto scalpore nei titoli, anche se non si tratta del vero e proprio burka, cioè quel specie di mantello che copre tutto anche con una retina davanti agli occhi. Io ne ho visti pochissimi in giro. Più generalmente si dovrebbe fare riferimento a quello che viene definito, quello che si chiama il niqab, cioè che lascia scoperti solo gli occhi coprendo tutto il resto. Voglio salutare Dunia e Taib, buongiorno. Buongiorno. È vicepresidente dell'Associazione Donne Marocchine nella sezione Lombardia e saluto. Mi scusi, sì, se la correggo, non sono vicepresidente, ma sono presidente Donne Arabe d'Italia. Perfetto, grazie per la precisazione. Saluto anche Zedine Alzir, buongiorno. Buongiorno. Che è portavoce dell'UCOI, l'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia. Dunia e Taib, le chiedo questo, che poi è la domanda che ci si pone anche all'estero, molti paesi si interrogano, è una libera scelta o un'imposizione maschilista secondo lei la questione del velo? Assolutamente la questione del niqab per me è un'imposizione maschilista, non può essere una libera scelta. Chi è quella donna che può andare in giro tutta vestita da fantasma e non può neanche muoversi, mangiare o respirare tranquillamente? Non sono contraria al velo che lascia in piena visione il viso, scoperto il viso, ma sono completamente contraria al niqab e al burka. Lo vieterebbe anche per legge, metterebbe una legge, perché oggi leggo su Libero che c'è una legge che giace in Parlamento a firma Isabella Bertolini e Maglio Contento, dice basterebbe questa legge e sia burka che niqab sarebbero vietati, cioè vietati andare in giro con questi vestiti. La linea è caduta, la recuperiamo. Zedine Elzir, vogliamo partire da quello che è successo domenica o lo archiviamo, quello che è successo domenica, la manifestazione di Daniela Santanchè? Io spero questo tipo di aggressione a una manifestazione religiosa. Sappiamo che domenica era la festa della fine di Ramadan, una festa religiosa dove purtroppo la signora con un gruppetto sono venuti a aggredire le donne musulmane. Spero che queste cose non ripetano più. Oddio, lei dice che è stata aggredita lei, ma comunque insomma queste sono versioni. Va bene, versioni. Ognuno ha la sua versione, poi grazie a Dio abbiamo la magistratura libera che può decidere loro questo. Detto questo, ci sono due scuole nel mondo islamico. Una scuola dove spiega che la donna deve essere con il viso scoperto. C'è un'altra scuola dove dice che la donna deve essere con il viso coperto. Noi come UCOI appoggiamo l'altra scuola, quella che dice il viso deve essere scoperto, ma questo non vuol dire che uno deve vietare a una donna per la sua libera scelta di mettere quello che viene detto il hijab integrale facendo una legge. Io credo dobbiamo superare queste divisioni, dobbiamo guardare a cose più alte, più importanti per la nostra società. Come possiamo avere una società coesa, come possiamo avere una società solidale, come possiamo avere una società che lavora insieme, senza guardando questo come vestito e questo come non è vestito. Sa però cosa mi ha colpito? Lei dice noi siamo per la scuola che prevede il viso scoperto, fatta salva la libera scelta ovviamente di ogni donna di decidere. E questo è un punto di vista che mi piace, cioè fatta la libera scelta della donna. E perché quella scuola? La scuola lei dice che la donna deve essere o a viso coperto o scoperto. E quel deve, capisce che forse crea quei problemi? Attenzione, deve non viene dal maschio, viene dalla fede religiosa. Allora se la donna crede in l'altra scuola, nell'altra interpretazione, e lei per la sua libera scelta lo mette, non è che il marito può obbligare. Attenzione, purtroppo ci sono casi dove il marito obbliga, io non parlo di questi casi che noi lo condanniamo a prescindere, ma se una donna con la sua libera scelta e prende l'altra interpretazione, io con quale mezzo devo giustificare a lei che lei sta sbagliando? È questa la questione della libera scelta, è tutto lì il tema. Dunia e Taib, abbiamo recuperato il telefono, la linea, eccoci. Sì, qua sì, sì, insomma Zedine Zir ne fa una questione di libertà, laddove c'è la libertà, quella libertà che lei insomma mi pare di capire dice non c'è in realtà, è tutto qua il tema, no? È tutto ma qua non esiste questa libertà. E poi il signore ha ricordato che è una imposizione religiosa. da nessuna parte l'Islam impone alla donna di coprirsi integralmente o di coprirsi completamente, assolutamente. Se si parla di libera scelta, lasciamo che siano le donne ad essere libere nelle loro scelte e non imponiamo dei costumi. Allora a questo punto alle donne che si portano in niqab possiamo permettere benissimo a degli operai musulmani che possono andare in giro vestiti come i talebani e ci facciamo baffo delle sicurezze e ci facciamo baffo di tutto il resto che riguarda la legge. Le volevo chiedere riguardo alla legge, perché molti ci dicono, è quello che ha detto anche Daniela Santanchè, la legge, c'è già una legge del 75 che impedisce, ma attenzione, impedisce di rendersi irriconoscibile in occasione di manifestazioni pubbliche. È per questo caso che Daniela Santanchè ha detto: io voglio che la polizia fermi le donne che sono velate completamente. Quella era una manifestazione pubblica. Ma nessuno impedisce, neanche con la legge del 75, a una donna invece di andare in giro singolarmente, insomma, su un marciapiede di una strada completamente velata. Secondo lei, Dunia Taib, ci vorrebbe una legge che vieti questo? E se sì, perché? Allora, ascolti, in tematiche delle leggi io non sono né un giuridico né un avvocato che può dare dei consigli. Io quello che dico, le donne devono essere assolutamente libere, libere di scegliere come abbigliarsi. Ma se ci sono, se il mondo arabo, il mondo musulmano si è sempre mobilitato per dare sostegno e liberare le donne in Arabia Saudita e le donne in Iran, qua noi in Italia dobbiamo fare in modo che queste donne vengano ancora di più segregate? Di questa segregazione, Ezzedine Alzir, lei ha detto ci possono essere dei casi, però lo riferisce, insomma, come dire, a casi singoli di cose che succedono, non una questione che purtroppo culturalmente magari è abbastanza più diffusa di quanto si possa pensare a singoli casi. Singoli casi. Io vivo da quasi 20 anni in Italia, conosco la realtà del mondo islamico. Ho contatti con l'associazione delle donne marocchine, contatti con diverse realtà del mondo femminista. Ci sono purtroppo casi anche gravissimi, ma a prescindere, ora non vorrei diminuire, anche se fosse un caso, è inaccettabile la violenza contro la donna. Detto questo, certamente purtroppo c'è la cultura maschile, ma questo a livello mondiale, dove dobbiamo lavorare maschi e femmine insieme per cambiare questa mentalità del maschio. Non è di una religione o di un'altra, o di una cultura, la cultura del maschio che pensa che lui è più importante della donna o altro, di cambiare questa mentalità per avere una società coesa. Cioè c'è ovunque, lei dice, c'è nella vostra cultura, c'è nella nostra cultura, c'è in tutte le culture. Le statistiche nel nostro paese, la violenza contro la donna privata, lo vediamo sotto gli occhi di tutti quanti, purtroppo. Questo è vero dal punto di vista della violenza. E Taib, che risponde a questa replica? È un problema di allora, culturale? La violenza sulle donne è vero che è una violenza che purtroppo non si attenua tutt'oggi, però il signor Ezzedine si è dimenticato questo fatto, che la violenza sulle donne musulmane, gli uomini musulmani si sentono autorizzati a fare tale violenza, perché si sono autoproclamati padroni delle donne, ed è questione diversa, e purtroppo in tanti casi la nostra signora, legge lo accetta. Attenzione, questo è vero, ma per la mentalità maschile, non c'entra niente con la religione. No, non sto dicendo la religione, sto dicendo la mentalità maschile, sto dicendo che molti imam, autoproclamatisi imam in Italia, li autorizzano a ciò, e purtroppo abbiamo anche in molti casi in cui la legge gli viene incontro. Basta pensare alla sentenza di Bologna, il caso di Fatima, che la terza Cassazione di Bologna ha annullato la condanna del giudice ai familiari di Fatima, che l'avevano sequestrata e tenuta chiusa in camera solo perché si era fermata a prendere un caffè con il suo datore di lavoro italiano. La Cassazione ha annullato la sentenza dicendo semplicemente i familiari cercavano di perseverare la tradizione. Io capisco l'accusa di Dunia Taib, è questa, Ezzedine Alzir, cioè quando parla di sedicenti autoproclamatisi imam, cioè che ci sia anche a questa violenza, questa supremazia dell'uomo sulla donna, una sorta di legittimazione da parte di alcuni rappresentanti religiosi dell'Islam in Italia. Questa è l'accusa forte che fa. Perciò io chiedo alle associazioni delle donne di collaborare insieme noi con loro per cercare di fare giornate di aggiornamento, corsi di aggiornamento, incontri, conferenze, per valorizzare la realtà della donna nel mondo islamico. Purtroppo ci sono dati che... Allora, no, ma i dati ci sono. Allora, io voglio andare in Francia, devo fare un minuto di pausa, voglio però salutare intanto il professor Max Gallo che ci sente. Professore, buongiorno. Buongiorno. Scrittore, giornalista, ex ministro, esponente politico, insomma, pensatore che ha scritto su questo tema perché in Francia se ne sta discutendo. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, vi chiediamo del velo integrale per le donne musulmane, che ne pensate? Lo vietereste in Italia con una legge? Allora andiamo in Francia, dove si sta parlando di questo tema. Il professor Max Gallo se ne sta parlando perché? Che ha voluto Sarkozy? La linea, oggi siamo un po' sfortunati. Allora, vogliamo andare da due ascoltatori, se sono velocissimi, all'800 24 00 24. Hassan da Verona. Sì, buongiorno. Dica. Grazie di avermi richiamato. Grazie a lei. Il problema, secondo me, non è mai stato imposto alle donne di mettere l'hijab, il velo, anche il kollab, il burka. Il problema, secondo me, ultimamente, che sia la Sant'Anche o la Schwarzwei, quella l'ultima che avete oggi come ospite, che vuol dire l'ultima che avete ospite, Dunia e Taib? Ma non dica l'ultima che avete ospite qui, perché sennò sembra che la... No, va bene, qualsiasi persona, qualsiasi donna che fa presidente di qualche associazione, stanno cercando la fama di essere un po' conosciuti qua in giro d'Italia, pur di uscire dalla normalità, di dire delle cose diverse dalla realtà. Le donne musulmane lo fanno, non si è mai stato obbligato a farlo, lo fa per scelta religiosa. In libertà, in libertà. Allora, Max Gallo, buongiorno. Buongiorno. Eccoci, in Francia Sarkozy che vuole? Il Presidente della Repubblica ha fatto una dichiarazione molto chiara dicendo che la burqa, la chiamiamo così in Francia, la burqa non è in conciliazione con la tradizione francese e che la burqa non è benvenuta in paese. La dichiarazione è stata molto precisa e poi c'è stata la riunione di una commissione parlamentare che sta lavorando su questo problema per sapere se sì o no bisogna avere una legge che fa interdizione di portare la burqa. Su questo punto c'è dibattito, non sulla burqa, siamo tutti, diciamo, ostili a questo modo di regolare la vita delle donne, ma la questione del dibattito è di bisogna fare o non fare una legge, legge per proibire questo porto della burqa. Il discorso è, dal punto di vista religioso, le chiedo, o culturale, cioè di rapporto uomo-donna? Abbiamo dei imam musulmani che spiegano che il posto della burqa non è assolutamente un'obbligazione religiosa, che nel Corano non c'è niente che obbliga a fare questa scelta, e dunque il problema non è un problema religioso, e che non si può accettare in Francia, e così l'opinione mi pare, delle donne che sono così imprigionate nel questo viso nascosto, eccetera. Dunque bisogna sapere, c'è quasi un'unanimità, e il fenomeno, devo dire, non è tanto allargato. E poi abbiamo l'esperimento della legge sul velo nelle scuole, e questa legge è stata molto efficace. Dove è già vietato, è vietato infatti. È stato votato e il velo non ha fatto conflitto come si credeva che questa legge andava a fare delle provocazioni. No, ma insomma, no? Il tema è discusso appunto in tutta Europa, e non solo in Italia, non solo in Francia, in diversi paesi. Prima abbiamo chiamato, cioè ci ha chiamato Hassan, che abbiamo voluto sentire perché, devo dire, è una voce minoritaria. Il sondaggio per ora parla abbastanza chiaro, il 90% vorrebbe abolirlo. Gianni da Pesaro, c'è anche lui, ce la fa in un minuto, anche 30 secondi. In un minuto, sì. Dica. Volentieri, volevo dire che sono molto, molto, ma moltissimo contrario. Molto contrario. Ospitalità, per carità, tutto quello che... Ma se loro vogliono fare come fare, visto che in Italia già c'è una legge, quello che ha detto la Santa anche? Sì, ma non è proprio così. La legge vieta di andare coperti a una manifestazione pubblica, ma non vieta appunto di andare in giro per le strade. Ecco, questa è una differenza. In una manifestazione pubblica, sì, è come se io vado col passamontagna in una manifestazione pubblica, ma non per un marciapiede, una donna che cammina nel marciapiede. Gianni, comunque. La linea anche era un po' ballerina. Dunia e Taib vuole rispondere. Hassan non c'è più, l'ascoltatore dice c'è un po' una voglia di forma di apparire, di pubblicità. Per carità, l'ignoranza non ha limite. Cosa vuole che gli dica? Purtroppo inviterei il Signore ad andare in giro nelle comunità dove sono accolte le nostre donne e vediamo quanto avrà ancora il coraggio di dire no, è tutta questione di apparire. Lo vorrei invitare ad andare negli ospedali durante la notte, alle 3 di notte, alle 4 di notte, e venga lui a vedere queste donne picchiate, queste donne lasciate sole, queste donne a cui sono stati strappati i figli, queste donne uccise. L'ultima è stata la povera Sanè, che sì. A tutt'oggi io non ho sentito una condanna ferma da tutta la parte islamica italiana, da tutta. Fino ad oggi me l'aspetto. Se l'aspetta, non so, Ezzedin, lei ha Ezzedin Elzir, portavoce di Lucò, immagino ci sia una condanna ferma, insomma, quello che è successo, l'omicidio del padre, no? Credo questa grande risposta della comunità islamica. Cioè, no, se è andato un po' via la linea, dica, la ripeta bene. No, mi spiace che la sorella Dunia, può darsi non ha visto che l'imam, lui è andato a brigare alla nostra sorella Sanà, quella che è stata uccisa purtroppo dal suo babbo. E questo è un grande segnale che la comunità islamica tutta è stata intorno alla figliola che è stata uccisa. Va bene, io mi devo fermare, vi ringrazio. Potete continuare a votare sul sito radio24.it alla sezione bianco o nero. Vi chiediamo se vietereste con una legge il velo integrale per le donne musulmane in Italia. Potete andare lì. Alle 13 vi daremo i risultati come sempre. Alessandro Marcotulli in redazione con Laura Marchesi, in regia Peter Bescapedro, la linea Oscar Giannino per 9 in punto, e noi ci sentiamo domattina alle 7:30.